Eccomi qua anche oggi, mercoledì 3 aprile, 15:22, siete rigorosamente in diretta su CRM Più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry e anche oggi del nostro carissimo Giuseppe. Buon pomeriggio Giuseppe. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, abbiamo passato una buona Pasqua Jerry. Facciamo di nuovo gli auguri, anche se è già passata, trascorsa però, va bene. Non possiamo dire buona Pasqua, dai. No, siete stati bene, facciamo la domanda, siete stati bene, la Pasquetta, tutto quanto. Vi siete quanto. Divertiti, avete mangiato. Tutti. Bevuto sicuramente. Adesso si bisogna mettersi in forma, no? Adesso sì, entriamo in dieta, facciamo un po' di movimento. Io già l'ho fatto venendo qua. Certo, ho fatto una bella corsetta al lungomare, per cui. Bravo, bravo. Hai mangiato tanto, vero Giuseppe? Ho mangiato tanto, ho bevuto anche tanto, devo dire. Bravo, quindi adesso ti tocca la dieta. La dieta ferrea. Come un po' tutti, insomma, in questi giorni abbiamo un po' esagerato, magari con i dolci, con il cioccolato. Esatto, io soprattutto, ecco, col cioccolato. Soprattutto quindi. Tu, esattamente. Quindi adesso, insomma, dobbiamo un po'... smaltire. Vabbè, dai, piano piano, anche questo. E allora ricordiamo i nostri numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, il 335-56-37251. Oppure 0921 92 32 92, oppure il nostro sito crmhappyradio.it, dove c'è la finestrella inviare messaggio. Inviateci tutte le vostre richieste post pasquali. bravo Giuseppe, hai detto tutto. Ricordiamo anche oggi all'interno del nostro programma l'appuntamento con la nostra rubrica Happy Cinema. Oggi abbiamo due film. Sì, oggi abbiamo due film perché insomma le prime posizioni sono rimaste invariate. Mm-hmm. Abbiamo delle curiosità, abbiamo il collegamento con Caterina Terranova da Palermo che ci racconterà il suo ultimo film visto proprio ieri sera. Ah, bene, bene. E poi avremo anche una piccola, sì, oggi abbiamo anche degli ospiti, una puntata abbastanza ricca, piena. Ricca. Ce abbiamo la faremo. I ragazzi dell'informazione, come io li ho soprannominati, di Cefalù Web, insomma, ci illustreranno un po' il loro sito. Sì, che ci raggiungeranno tra poco. Tra poco. Intanto è arrivato un messaggio dalla nostra Caterina da Palermo che ci augura un buon lavoro, ragazzi. Quindi, e ciao. Buon lavoro anche a te, ciao, tra poco Caterina. Ci sentiamo dopo, un bacione grande. Allora, che dici Giuseppe? Cominciamo, visto che siamo in ritardo come al solito. Cominciamo con la bella musica, con e un allora, po' di carica. Sì, e allora cominciamo! Mama che dire, abbiamo cominciato alla grande, vero Giuseppe? Se la vi. È la vita. La vita che è meravigliosa, comunque sempre. Meravigliosa, bisogna sempre essere briosi. Sempre. Esatto. Siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia naturalmente di Jerry e di Giuseppe, sino alle 17. Adesso arriva lei, Emma, su questa canzone. Saluto Chiara, ciao Chiara! La notte porta via il dolore, accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare, spengo ad una anche le stelle, al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io, mi sento bella come non mai. Come questo sole che ci illumina, amami come la terra, la pioggia d'estate, amami come se fossi la luce di un faro nel mare. C'è solo il vento e porta via l'amore, cancello coi tuoi occhi le mie fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina, e conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani e conto sulla pelle, e bocca contro bocca, e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina. Amami come la terra, la pioggia d'estate, amami come se fossi la luce di un faro nel mare. C'è solo il vento e porta via l'amore, e tutto quello che resta sono sogni incollati fino a dentro le ossa, e abbiamo appeso le ali, viaggiamo dentro ai ricordi e poi restiamo da soli. Ma amami e dammi le mani, le mani, le mani, le mani. Su questa meravigliosa canzone di Emma saluto la nostra amica Chiara che ce l'ha richiesta sempre al 335-56-37-251 e ancora allo 0921-92-32-92. Ciao Chiara, la salutiamo. Certo, ma sai che ho una notizia a proposito di questa canzone? No, perché volevo dedicartela a questa canzone, sì. No? Perché a me. Bella. Sì. Ma poi ho, diciamo, letto una notizia anch'io e mi sa che non te la dedico più, dai. No, non me la dedicare, evita di dedicarmela. Praticamente sembra la scena di un film. Sì, molto curiosa. Molto e invece curiosa. Praticamente tutto drammaticamente vero, o così almeno sembrerebbe. Praticamente sai cosa è successo? Durante una puntata in diretta su Radio Tribù, un'emittente in onda su Facebook, sì. Una fan in studio dedica al fidanzato questa canzone, la canzone di Emma, Amami, quindi. E fin qua tutto diciamo, normale, tranquillo, ecco. A posto. Sì. La canzone quindi va in onda, i conduttori chiacchierano del più e del meno, ma Cristina, così si chiama la ragazza, sì. Sembra un po' impegnata con il cellulare. A un certo punto Cristina riceve quindi una telefonata proprio sì. dal suo fidanzato E il ragazzo, a quanto pare, sembra non essere per niente contento di essere, quindi, di aver ricevuto questa dedica in diretta. Per la scelta musicale, insomma. Praticamente sì. Cristina praticamente è sconvolta. Sì. E cerca quindi di spiegare che il suo era un gesto d'amore, ovviamente. Sì. E invece lui niente, lui interrompe la telefonata e la lascia praticamente in diretta, le getta via il telefono, scappa via dallo studio lasciando i due conduttori attoniti e imbarazzati al massimo. Oddio. Diciamo, il tutto è stato ripreso dall'occhio delle webcam della radio. Oddio, cioè, oddio. Ma secondo te è normale? Cioè, una ragazza dedica una canzone bella. È stata lasciata bella. In diretta, insomma. Sì, dedica la canzone al suo fidanzato e lui che fa? Si arrabbia pure. Magari non era del suo, diciamo, piacere. Dico, Cristina, guarda, uno così, ascoltami, meglio perderlo che trovarlo, non ti merita per niente. Ma dai, Jenny, non siamo drammatici. Ma dai, prego. Scusa, è una cosa carina, divertente, cioè, bella, una d'amore, no. Lui è una notizia vera, insomma. Ma è verissima, secondo te io do notizie false? No, non diamo mai notizie false, okay. Però, insomma, è un po' inverosimile sta cosa. Che brutta è storia. È successo. Eppure è successa. Cioè, Cristina, tranquilla, lasciala andà. Uno così non te merita. Non ti è merita. E io che volevo dedicarti la canzone. Ma che devi fare questa canzone? Comunque, grande Emma, sempre molto brava alla ribalta. Tra poco partirà il serale dove lei sarà, diciamo, giudice. Il coach, vocal coach. No, vocal coach, il direttore artistico addirittura, vabbè. Perché dovrà addirittura dirigere anche i ballerini, quindi insieme lo una ricordiamo alla grande Michel Bosè. Sì, certo, non sicuramente. Ah, direi. E andiamo avanti, va, che dici, meglio. Andiamo avanti con la buona musica, sempre qui in diretta su CRM P Radio, all'interno di Semplicemente Insieme, insieme a Jerry e insieme a quel simpaticone Giuseppe, vai, Giuseppe. Fly Project. I'll see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'm

su CRM Più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry e anche di Giuseppe oggi. Eccoci ritornati qua. Ricordiamo che soleggiato, sì, molto, molto bello. Ricordiamo che tra un po' ci saranno con noi i nostri amici di Cefal Web, che faremo, ci intratterremo un po', fare quattro chiacchiere, parleremo un po' del loro sito, insomma, scambieremo sì. un po' di opinioni vari. Come li ho soprannominati io, i ragazzi dell'informazione. Li avremo qua tra un po' parleremo insieme a loro. Intanto noi continuiamo sempre con la bella musica su CRM Più Radio. Vai. Tre sono le cose che devo ricordarmi di fare quando come una luce entrerai. Le prime due nasconderò dentro una pagina scriverò sui vetri sporchissimi di un'auto blu, blu come i tuoi occhi. A cui raramente sfuggirò. E anche se fosse parlare, che senso hai? Costringiamo la notte a non fare rumore, abbandoniamoci al giorno. Sono le cose che devo ricordarmi di dire quando davvero sicura sarò. We'll be right back. bella questa canzone, vero Giuseppe? Ti piace? Proprio bella, e è bella anche lei, insomma. E ti pareva, se non dovevi fare un commento, certo, tu sulla persona proprio. Abbiamo poi una foto qui davanti, insomma, è molto bella. Molto bella. Tra l'altro, di Malika Ayane abbiamo anche una notizia. Sì. Perché penso un po', dopo aver incassato il successo di pubblico e critica all'ultimo festival di Sanremo con due brani firmati da Giuliano Sangiorgi, Niente e Se Poi, sì, Malika Ayane pensa già al tour. La tranche primaverile della Ricreazione Tour riparte l'11 aprile a Brindisi e prosegue fino a maggio, ma toccherà anche la nostra bella Sicilia, prima a Catania il 18 aprile e poi a Palermo il 19. Capito? Dai, ma poi lei dice, cosa dice Jerry? Che dice? Dimmelo tu che dice. Che ama la Sicilia da morire, da morire. Brava, brava Malika Ayane. Bravissima. La terra del sol. Sì, perché dice lì ho girato il mio video Thought and Clouds, che è uno tra i suoi primi video, mm-hmm, che ha, sì, fatto. E insomma, ama la nostra terra e noi amiamo lei. Sicuramente, sicuramente, bene. E allora è arrivato il momento, sono già le 16.03 e i nostri amici di Cefalù Web sono arrivati qui, sono pronti, amici. Allora diamo il benvenuto al nostro Stefan Davola. Ciao. Buongiorno. E al nostro Davide, se non erro. Sì, sì, salve Davide a tutti. Bellavia. Davide Bellavia, non ricordavo il cognome, scusate, voglio dire. Davide Bellavia, sono loro che curano il sito Cefalù Web, il sito dei giovani, per i giovani, come dicono loro. Esattamente. E loro sono i giovani dell'informazione, come io li ho soprannominati, di Cefalù, e non solo. E non solo, infatti nei nostri intenti c'è quello di espanderci sempre di più nel territorio madonita e nella provincia di Palermo nel suo insieme, sì, però come dici tu, sempre con il punto di vista dei giovani, l'informazione per i giovani. Esattamente. Ovviamente il nostro intento è quello di non perdere in autenticità ed autorevolezza. Esatto, esatto, quindi per i giovani però in maniera autorevole e in maniera professionale, insomma, va bene. Allora, perché ho visto anche delle foto che vanno sul sito delle discoteche, della nightlife cefaludese, insomma. Sì, esattamente. Noi, essendo un sito fatto da giovani che nasce per i giovani, curiamo anche diverse sezioni fatte appunto per i giovani, come quella della nightlife. Abbiamo dei fotografi, dei collaboratori, diversi ragazzi che si occupano appunto di fotografare i principali eventi della vita notturna che si svolgono all'interno delle Madonie, con un punto di diciamo una centralità sempre cefaludese. Carichiamo anche le foto che sono molto viste all'interno del nostro giornale. Sì, perché il vostro sito è molto cliccato dai giovani. Sì. È proprio un punto di riferimento, direi. Diventa sempre di più punto di riferimento proprio per questa eterogeneità dell'informazione. Si passa dalla nightlife con le foto delle discoteche e appunto di tutti gli eventi mondani, sì, poi fino ad occuparsi del consiglio comunale con, almeno ci si prova, una certa, come dire, sì, autorevolezza, appunto, e detto poco fa. Esatto. E va bene, allora, posso dire che è Epicinema, va anche... Lo stavo per dire. Ecco, dillo tu, Jenny, dillo tu. Intanto li ringraziamo perché ti danno, soprattutto danno a te, insomma, uno spazio dedicato appunto alla nostra rubrica Epicinema, quindi grazie per questo, perché Giuseppe è felicissimo, contentissimo ogni volta. Felicissimo di essere pure su Cefalù Web, che poi a quanto pare sta avendo anche un po' di followers, un po' di successo. Un bel, no? Po' di click, sì, un sì. Un po' sì, di sì, click, sì. mi piace. Beh, certo. Sei messo lì che fai pubblicità continua, è normale. Mettete mi piace. No, sto scherzando, dai. È bello, c'è, okay, una bella Jerry, rubrica la tua, Giuseppe, dai. Grazie, grazie. Che poi la vedremo tra un po', sì, i film in uscita, le curiosità, insomma, tra poco con Epicinema. Oggi abbiamo una giornata bella, ricca di tante cose. Sì, vuoi fare una domanda, Jerry, oppure passiamo alla musica? Andiamo avanti con la musica e poi magari ritorniamo in studio con i nostri amici che oggi saranno con noi, credo, tutto il pomeriggio fino alle 17. Ci terrete compagnia, parleremo... Sì, sicuramente. Ah, hai visto? Tutto il pomeriggio qui con noi, tutti ragazzi insieme dell'informazione, Davide e Stefan, ma adesso I See You. You were never young, my love. I can tell not by the way that you smell, but by the way you move your tongue, my love. Somebody shake me. What can I do? Am I in love with the night? Am I in love with you? Will you take my

diretta su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. Su CRM Radio all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia naturalmente di Jerry, Giuseppe e dei nostri amici di Cefal Web, Stefano e Davide. Detto bene, Stefano? Stefan, pardon. Ah, io con gli accenti. Oh, Stefan, ok. Ma vogliamo partire con l'intervista a questi due giovanotti qua? Certo, sì. Che partiamo. Allora, diciamo che il progetto Cefal Web in quest'ultimo mese, diciamo, ha subito un po' di cambiamenti per quanto riguarda la gestione del sito. Il vostro proposito, diciamo, principale è quello di fare un sito web per i giovani e con i giovani, giustamente, no? Esatto. Quanti ragazzi, diciamo, collaborano insieme a voi? Quante a questo progetto di Cefal Web, appunto? Allora, insieme a noi due attualmente ci sono una dozzina di collaboratori che si dividono in fotografi e anche altri ragazzi che scrivono, che comunque si occupano di curare varie sezioni. Tra per esempio Peppe, che appunto cura la sezione Epicinema, certo. Ogni giovedì. Per quanto riguarda invece le Madonie, abbiamo anche alcuni collaboratori che ci scrivono da vari paesi, magari ci mandano dei pezzi o delle foto, e così cerchiamo anche di occuparci di tutto il territorio del circondario. Bene, ma accettate quindi nuove collaborazioni per chi volesse entrare a far parte della vostra famiglia? Assolutamente sì, anzi noi siamo alla ricerca, stiamo per l'appunto reclutando dei giovani ragazzi o delle giovani ragazze che possono essere interessati a partecipare a questo progetto, che ormai ha quasi un anno di tempo e stiamo cercando di ingrandirci sempre di più. Bene, bene. Allora, per chi è all'ascolto, sì. Dove possono indirizzarsi, come possono raggiungervi questi ragazzi, chi fosse interessato a voi? Allora, i ragazzi che sono interessati possono entrare su cefalweb.com, alla sezione contattaci possono mandarci un'email, oppure troveranno anche i numeri di telefono con i quali, diciamo, possono contattarci e noi siamo lì per dargli tutte le informazioni possibili. Quindi per chi fosse interessato, insomma, a scrivere eccetera eccetera, può contattare direttamente nella sezione contatti il vostro sito. Esattamente. Benissimo. Però io volevo sapere cosa vi spinge, cosa ad impegnarvi nel campo del giornalismo, cioè ci sono delle esperienze passate? Come mai questa passione, insomma? Innanzitutto vi è una passione che ci spinge per la verità, per l'autenticità dell'informazione, per la non parzialità, e delle esperienze pregresse che hanno contraddistinto il nostro cammino e ci hanno portati oggi a fare questa scelta di, fra virgolette, metterci in proprio dopo aver... aver avuto appunto queste esperienze su altre testate. Sì. Io a livello universitario ho fatto parte dello staff di un giornale universitario. Sì. Poi continuo a collaborare. Si inizia con, sempre da l'inizio. Sì, sì, sì. Con altre testate locali, così come anche Stefan, che ha avuto appunto delle esperienze. Io ho iniziato a collaborare con l'Altre Cefalù nell'estate del 2011. Dopo, diciamo, circa un annetto di collaborazione con l'Altre Cefalù, ho deciso insieme ad altri ragazzi di aprire Cefalù Web, che è nato il 22 giugno dello scorso anno. Ho capito, quindi il sito è in buonissime mani, in mani di professionisti giovani. Per chi fosse interessato, appunto, contattateli direttamente. Poi vogliamo parlare un po' della faccenda del... troppo maschilismo nel giornalismo. Cosa ne pensate? Parliamone di questa cosa. Effettivamente, pur non essendoci sulla carta delle regole che vincolano le assunzioni o comunque la scelta di collaboratori e collaboratrici, al giorno d'oggi ancora vi è una sorta di gradiente che è a favore degli uomini piuttosto. Sì. Che delle donne all'interno delle redazioni, sia delle testate più autorevoli che appunto pure dei piccoli giornalini di provincia, diciamo così. Quindi le ragazze sono ben accette? Nella nostra compagine appunto sono molto ben accette, accette in quanto noi crediamo nel valore aggiunto femminile. Bene. Spesso e volentieri anche hai visto Jerry? Perché sono portatrici di una dovizia di particolari che l'uomo per certi versi non ha. Brano, bravo, bravissimo, complimenti, hai detto la cosa giusta. Quindi una bellissima opportunità per le ragazze soprattutto, ma anche per i ragazzi, per chi volesse scrivere. Per tutti coloro, insomma, che fossero appassionati, insomma, di giornalismo, che volessero appunto dire la propria opinione, insomma, interagire col mondo. Quindi come vedete il futuro del vostro sito di Cefalù Web? Allora, intanto noi in fatto di ragazze presto avremo delle belle novità, delle belle sorprese per tutti gli utenti di Cefalù Web, che però non stiamo qui a svelare. Sarà una sorpresa. Sarà una bella sorpresa. E poi il futuro di Cefalù Web sicuramente noi lo vediamo roseo, perché abbiamo tanti assi nella manica ancora. Roseo e rosa. Sì. Ho fatto la battuta. Ma va, non ce ne eravamo accorti per niente, Giuseppe. Quindi quali sono i vostri progetti futuri? Ne vogliamo parlare? Appunto, come si diceva, puntare sul valore aggiunto femminile con molti ruoli di rilievo. Sì. Da concedere ad esse, poi uno sviluppo della redazione dal punto di vista culturale, nuove rubriche che si occuperanno del territorio, delle tradizioni di quest'ultimo. Sì. Infine una particolare attenzione verrà posta su tutto quello che è stato il folklore siciliano, perché spesso è e volentieri sì, viene sottovalutato. Esattamente. Benissimo, quindi voi ho visto sul vostro sito che trattate soprattutto argomenti di quotidianità. Sì, certo. È una scelta ben precisa. Come è nata questa scelta? Innanzitutto, essendo un giornale online, l'approfondimento va fatto, ma da un giornale online quello che ci si aspetta è la tempestività della notizia. L'approfondimento ovviamente non dico che va in secondo piano, ma comunque vi si dedica meno spazio, sì, in quanto la tempestività delle notizie è quello che ci si aspetta di più. Insomma, la cronaca. La cronaca, la cronaca sia politica che cronaca nera, tutta quella che è cronaca, appunto l'importante, come si suol dire, è sempre essere sul pezzo. Tutti i tipi di cronaca. Sì. Bene. Bene, allora, il sito dei giovani per i giovani, secondo me è una cosa molto importante, molto bella, perché stanno dando un'opportunità. Poi loro sono giovanissimi, tra l'altro. Sono giovanissimi, ragazzi. Quanti anni avete, scusate, per curiosità? Io ne ho 28, quasi 23. Giovanissimi, voglio dire, già alle prese. 23 anni, ragazzi. 23. C'è un fanciullino. Fanciullino, insomma, potessi essere mio figlio. Esagerato. Giuseppe, dai, ma che sei esagerato, mamma mia. Hai altre domande, Jerry? Vuoi fare altre domande? No, per il momento. Curiosità? Va bene, no, però va bene. Noi direi di dare un po' spazio alla musica e poi magari, sì, ritorniamo con loro. A parte che dobbiamo comunque parlare della nostra rubrica, che quindi loro, sì, saranno con noi, ci faranno compagnia. Tra poco ci parte... daranno la loro opinione. La loro opinione, saranno qui a commentare con noi la nostra rubrica. Che parte tra poco, quindi i film in uscita, le 5 posizioni dei film più visti nello scorso weekend. Sì. E insomma, Stefano e Davide, passeremo un altro po' di tempo assieme. Con piacere. E io su questa canzone che sentite già in sottofondo, dei Pink Floyd, saluto il mio carissimo amico Aldo. Ciao Aldo. Ciao Aldo. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. tuo pomeriggio su CRM Epiradio è semplicemente insieme. Ed eccoci tornati in diretta con i nostri ragazzi di Cefaluweb. Davide e Stefan qui con noi, sempre ragazzi dell'informazione cefaludese. Salve. E non solo. Allora, cosa volete dire? Volete illustrare qualcos'altro del sito? Quali sono... Fatevi conoscere ancora meglio. Diciamo, delle informazioni... Delle informazioni riservate, alludi a questo. Troppo private magari no, però cosa vedremo prossimamente sul vostro sito? Appunto, come ti dicevamo, vogliamo espandere gli orizzonti del nostro prodotto, del nostro progetto, quindi... appunto nuove categorie, nuove rubriche, ma adesso... Quali sono le vostre idee, insomma? Quale rubrica vorreste introdurre sul vostro sito? Sicuramente una attenzione particolare la rivolgeremo all'enogastronomia. Interessante. Se magna. A tutto quello che è, appunto, come vi dicevo, il territorio, quella parte della Sicilia che spesso è bistrattata perché sì, non fa parte dei tour operator, non è segnalata. Anche questo è molto importante. Direi. Jerry, hai qualche domandina? No, lascio a te i tuoi amici, dai. I miei amici. Ti lascio tutto, ti lascio gestire. Fai benissimo. Un po' da intervistatore. No, nulla. Cosa dire? Siamo in diretta. Siete web. Anche in diretta web, ciao, quindi ciao, per tutti gli amici che ci seguono in diretta streaming, ricordiamo il nostro sito che è il www.crmperedio.it, vi possono anche vedere, non solo ascoltare, online. Allora, qual è la vostra... Ecco, volevo farvi questa domanda. Qual è la sezione a cui siete più legati? Qual è la... che curate magari maggiormente? Sicuramente la sezione politica in passato l'ha fatta da padrone nella redazione di Cefaluweb. Con questo cambio di guardia che c'è stato fra appunto i ragazzi, che i nostri prima amici, prima eravate in quattro, sì. Poi due nostri amici da qualche settimana hanno deciso di dedicarsi a un nuovo progetto. Uno dei due, Innocenzo Iacono in particolare, era molto interessato di politica, gli piace molto, era sì, la sua passione, lo è tutt'oggi. Sì. E quindi da questo momento noi terremo... appunto sempre presente quest'ultima, ma dedicandoci anche molto di più, se a Dio piacendo, diciamo così, se riusciremo, alla cultura, alla nightlife e tutto quello che è, diciamo, più frizzante. Sì, tutto quello che gira intorno ai giovani, insomma. Sì, ovviamente senza voler trascurare o la cronaca denigrare di qualsiasi genere. Sì. Stefano, vuoi dire qualcosa? Sicuramente avrà una particolare importanza appunto quelle sezioni che si rivolgono a un pubblico più giovanile, quindi se comunque continueremo a trattare di politica, di eventi culturali di un certo spessore, ovviamente sarà molto importante quello che è il comparto multimediale e quindi foto, video e servizi di questo genere qui. Inoltre avevamo iniziato con Cefaluweb durante la trascorsa stagione estiva con le video interviste che abbiamo intenzione di riprendere. Benissimo. E che avevano un ottimo successo. Molto molto bene, bene. Tra i giovani c'è anche la sezione cinema. Cara Jerry, l'epicinema, tra poco la parleremo. La tua rubrica, la tua. Sì, vabbè, la mia, dai, non facciamo pubblicità. Ma quanto sei simpatico. Così tra poco parleremo della nostra rubrica epicinema con i due film in uscita più visti. E avremo anche in collegamento con noi da Palermo la nostra inviata speciale Caterina Terranova, che già si starà chiedendo ma che fine hanno fatto voi? Sì, dove sono andati a finire? Mi hanno abbandonata. Ma no, ci siamo. Siamo ancora con i nostri amici che comunque resteranno con noi fino alla fine, quindi parleremo anche con loro, insieme a loro, del nostro Happy Cinema. Sì, e questa è una richiesta proprio dei nostri amici. Neffa, il suo ultimo successo, molto calmo, dobbiamo stare molto tutti, calmi. Tutti molto calmi. Calmi. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Quando il treno se ne va, quando il tempo se ne va,

action. When you hear this in the club, you gotta chip turn it up. You gotta chip turn it up. You gotta chip turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, now, rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together. Ed eccoci qua, e su questa canzone saluto la nostra amica da Palermo, Valeria, che ce l'ha richiesta. Ciao Valeria da Palermo, questa è la tua canzone. Adesso iniziamo con la nostra rubrica Happy Cinema, cara Jerry. Sì, direi di cominciare perché siamo in compagnia dei nostri amici. Siamo un po' in ritardo, è vero, è vero, è vero. E allora, Jerry, partiamo dalla quinta posizione dei film più visti dello scorso weekend. Non abbiamo la sigla, la nostra sigla al momento, però per un problema tecnico. E la quinta posizione è occupata da La Madre. Sì, quel bellissimo parlato, film che... Ecco, bellissimo, veramente. Ce ne ha parlato la nostra Caterina la scorsa settimana, se non erro. Sì. Ed è sempre al quinto posto con l'incasso di 631.000 euro ed è in programmazione appunto da 2 settimane. Bene. Va bene. Va alla grande. No, alla grande no, comunque è sempre ben visto, diciamo, perché il genere horror, come sempre, a me piace, sì, in effetti, abbastanza molto seguito. Voi, generi vostri, cari ragazzi, quali sono nel cinema? Thriller, horror, soprattutto. Ah, quindi beh, potresti andare a vedere La Madre. Sicuramente, ancora non l'ho visto, ma ci devo andare. Sì, ancora in programmazione per qualche settimana, La Madre. Invece tu, Davide? Ma io preferisco quelli di azione oppure quelli storici. Esatto, quindi quelli di azione. Ne abbiamo uno ben tosto al terzo posto dei film più visti. Però adesso occupiamoci della quarta posizione. Ascoltiamo il trailer. E ha incassato 1.077.639.000 euro. Una cosetta così. È da una settimana sugli schermi. E qual è? In Italia. Ed è un film favolesco, eccetera. Ce ne parlerà Caterina, Il cacciatore di giganti. Ascoltiamo il trailer. Andiamo allora. Take out the stories they put into your life. Da cosa siete in fuga? Chi ha detto che sono in fuga da qualcosa? Forse corro verso qualcosa. Forse cerco un'avventura tutta mia. Che c'è? Sono morto? No, non ancora. La nostra missione è salvare la principessa. Mi offro volontario. Hai paura del vuoto? No, di cadere. Allora non cadere! Sei qui? Sembri sorpresa. Niente affatto. Spero che vostra figlia trovi la strada per scendere. E se qualcun altro calasse giù prima di lei? Siamo finalmente tornati a casa. Sì! Fai! I giganti! Avvisa gli altri regni. Pronta? No! I giganti hanno dei punti deboli! Non molti, no! tu chi sei? Ed eccoci qua, non ritornati in studio. Bentornati, abbiamo sentito il trailer del Cacciatore di Giganti e ieri sera è stata nelle sale la nostra Caterina da Palermo. Ciao Caterina! Pronto? Che succede? Che è sto rumore? Aspetta. Problema tecnico? Ok, ok. Caterina, ci sei? Ci senti? Io vi sento, ragazzi! Ciao, come stai? Sto benissimo, ho il fiatone perché poco fa ho ballato davanti allo specchio Scream and Shout. Ecco, ecco, la nostra musica è sempre molto seguita, molto seguita. E allora, Caterina, il Cacciatore di Giganti, da una settimana in programmazione. Cosa ci dici di questo film? Che cosa vi dico? Che questa settimana andremo al cinema e la favola ce la facciamo raccontare al cinema. Semplicissimo, per cui torniamo ad essere bambini e ci godiamo, insomma, questo film realizzato da Bryan Singer, che è un regista americano, che ha realizzato notevoli film, esatto, d'azione. Sì. E adesso invece quali, si è dedicato un po' esempio? Ai bambini. E I Soliti Sospetti, X-Men 2, anche Operazione Superman Valkyria. Returns, insomma. Un regista, diciamo, dei fumetti che si sta discendendo anche in altri campi, come anche questo delle favole. Sì, lo fa magistralmente perché ci sono degli effetti speciali davvero particolari. Infatti il film viene anche proposto in 3D e quindi suggerisco la visione in 3D proprio per cogliere tutte le scene, insomma, e gli aspetti più spettacolari del film. Sì, perché è abbastanza spettacolare, ho visto, diciamo, le recensioni. Però cosa ci sono vuoi... tutti gli ingredienti della favola, caro Giuseppe. C'è la principessa, c'è un bellissimo castello, naturalmente ci sono i buoni, ci sono i cattivi. E sai qual è la morale della favola, Giuseppe? Dimmi, c'è sempre una morale nelle favole, dimmi. Bisogna andare al cinema e scoprirlo da se stessi. No, non ci puoi lasciare così, Caterina. Sì, dovete andare al cinema. Hai qualche curiosità sul film oppure cosa vuoi dirci? Sì, non si tratta di un cartoon, pur essendo, ecco, così, pur avendo questo aspetto di favola, sì. Tutte le scene sono state girate in Inghilterra e quindi vediamo bellissimi paesaggi. Ah, certo, campagne, l'Inghilterra dei castelli. Esatto. Alcune scene sono state girate all'interno di cattedrali, come quella di Norwich e quella di Wells, e poi ci sono anche altri, diciamo, luoghi naturalistici molto belli dove Benissimo. Vivono i giganti. Benissimo, sempre preziosissimo il tuo intervento. Grande la nostra Caterina. Grande, sì, grande. E poi, come dicono i giganti, ucci ucci sento odore di Christian Ucci. Sì, perché i giganti sono cattivi e si mangiano degli esseri umani, quindi c'è anche l'aspetto un po' così terrificante nel film, però è adatto ai bambini, basta prepararmi un po' prima. Benissimo. Allora, Il Cacciatore di Giganti, al quarto posto dei film più visti dello scorso weekend. Grazie mille, Caterina. Grazie a voi. Ciao, un bacione. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. E allora, ragazzi qui in studio, i nostri ragazzi qui dell'informazione, cosa ne dite di questo film? È di vostro genere? Lo andreste a vedere oppure no? Beh, il trailer sembra sicuramente interessante, molto accattivante. Poi anche le informazioni che ci ha appena dato Caterina ci invogliano. Sì, ci invogliano. Norwich, i castelli, i paesaggi, sì. Ci sono appunto, dei paesaggi rurali, sì. Inglesi, quello è qualcosa che suscita il suo fascino. Esatto, quindi ci sono dei paesaggi in 3D fenomenali. Ok, allora passiamo, questa era la quarta posizione, passiamo alla terza posizione dei film più visti e troviamo un film d'azione come quelli che piacciono a Davide, credo anche a Stephen. Anche a me. Ed è G.I. Joe 2, La Vendetta. Ha incassato 1.305.000 euro, è in programmazione da una settimana. E vogliamo ascoltare il trailer? Ne sentiremo delle belle sparatorie in tutti i campi. Andiamo! Oggi il reparto combattente d'elite... Controllo armi! Fatto! Non ha compiuto il dovere di proteggerci. La vigilanza è in anticipo. Su mio ordine, tutto il personale del reparto è stato eliminato. I G.I. Joe non esistono più. Era una trappola fin dall'inizio. Rimaniamo solo noi. È la più grande ridistribuzione del potere che l'umanità abbia mai visto. Bella maschera. Il nostro governo è stato compromesso. Muoviamoci, il mondo non si salva da solo. Di non poterci fidare di nessuno. Però c'è un uomo. Stai bene? Sì, tu stai bene? Ho il colesterolo alto. Ed eccoci ritornati, questa è la terza posizione dei film più visti dello scorso weekend. Quindi durante la Pasqua i nostri cari concittadini italiani si sono un po' avventurati anche nell'action movie. Quindi questo era J.I. Joe La Vendetta, e il regista John Chu, un americano dalle origini orientali, non si è mai occupato di action, si è occupato, diciamo, di film più per giovani come Step Up, Step Up 2, non so se l'hai visto tu. Era quel film dove si ballava abbastanza, molto amato dai giovani. Allora, il cast è tutto al maschile, tra cui il bravissimo Bruce Willis, tranne una sola donna, la bellissima attrice spagnola Adrienne Palicki, che è veramente molto molto bella. Io direi che vale solamente il film per andarla a vedere. E ti pareva. Allora, il film è la seconda trasposizione cinematografica di in live action dei celebri pupazzetti di una nota casa di giocattoli, appunto i J.I. Joe. Non so se voi da piccoli ci giocavate, insomma sono quei pupazzetti, diciamo, guerrieri eccetera, di una nota casa di giocattoli. Io non ricordo. Sì, io mi ricordo. Andavano molto in voga soprattutto in America. Bene. Il film è il sequel, quindi la seconda parte di J.I. Joe, la nascita dei Cobra, che è andato sugli schermi nel 2009. Va bene, Jerry, mi stai ascoltando? Sì, siccome non ti ascolto. Ok, allora. Mi sto occupando un po' di gestirmi un po' il tutto, quindi. Il tutto, perché la nostra Jerry è alla regia. Allora, trama, scenografia, sceneggiatura e bravura degli attori in questo film passano in secondo piano e diventano solo un contorno, Jerry. Perché, infatti, più che davanti ad un film, siamo di fronte ad un'attrazione basata esclusivamente sulla spettacolarità. Oh, che bello! Perché immersione 3D è veramente spettacolare questo film. Allora, vediamo un po' la trama. La squadra dei J.I. Joe, attirata in una imboscata, è praticamente decimata. È stata decimata. Sopravvivono in pochissimi il mandante della strage e il presidente degli Stati Uniti. Uno così. O almeno dice di esserlo. In realtà Zartan ha preso il suo posto per aprire la strada verso la Casa Bianca ai Cobra, che sono praticamente, appunto, gli antagonisti dei nostri J.I. Joe, quindi i rivali, che hanno un piano per disarmare gli arsenali nucleari delle principali potenze mondiali e poi minacciarle con nuove armi di distruzione. Solo 3 uomini hanno capito cosa sta succedendo e per mandare a monte il piano dovranno fare nuove alleanze con ex nemici e andare a trovare il Joe originale. Allora, per chi ama l'azione, cara Jerry, ci si diverte guardando questo film tantissimo, tantissimo, veramente. Bene, c'è, a me tantissima piace, azione. Devo andare a vedere anche questo. Io c'ho una sfilza di film di da andare film a vedere. Che devi andare a vedere, benissimo. Però a patto, cara Jerry, che lo si veda in 3D in una sala super attrezzata. Mm-hmm. Va bene, perché veramente ne vale la pena vedere il 3D di questo film. Stupendo, veramente. Quindi, Davide, tu lo andrai a vedere sicuramente. Sì, lo andrò a vedere. Dal trailer mi sentirei di dire che andrebbe presa in considerazione anche la colonna sonora, perché se ho riconosciuto bene c'era una Seven Nation Army dei White Stripes, rivisitata, esatto, remixata, che se ricordiamo bene fu leitmotiv dei mondiali 2006, che esatto, esatto, quindi è stata remixata, esatto, è stata remixata appunto per questo film Super Action. Va bene Jerry, quindi la terza posizione dei film più visti durante lo scorso weekend. Vogliamo andare a vedere le prime due posizioni, sono rimaste invariate Jerry, sono i film più visti anche della prima settimana, della velocemente scorsa settimana. Giuseppe, dai, veloce veloce. Allora, al secondo posto Benvenuto Presidente, la commedia con Claudio Bisio, dove all'improvviso diviene, diciamo, Presidente della Repubblica Italiana, ed ha incassato, diciamo, in totale 5 milioni di euro in programmazione da due settimane, e questo è il secondo posto dei film più visti. Al primo posto rimane, forse magari i nostri amici non piacerà questo film, però è al primo posto perché, come spieghiamo sempre noi, ai primi posti ci sono sempre i film per tutta la famiglia, quella i con blockbuster cui, ecco, i blockbuster, insomma tutti quei film dove ci si va con la famiglia, e sono i Croods, i divertentissimi cavernicoli in cartone animato, sempre in 3D, che si conquistano anche il primo posto dei film più visti dello scorso weekend, ed ha incassato più di 6 milioni di euro solamente in Italia. Questa è da due settimane nelle sale. E cosa dire? Queste sono le 5 posizioni dei dire? Film più sì, visti. Sì, che adesso facciamo una piccola interruzione e poi naturalmente ritorniamo in studio. È molto breve, andiamo a vedere i film in uscita proprio domani, 4 di aprile. Ok, a tra poco. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è Semplicemente Insieme. Ed eccoci ancora qui per qualche minutino. Giuseppe, sei pronto per darci le ultime, le posizioni, dei consigli, insomma? No, nostro... volevo dare, Jerry, i film in, i uscita, film in uscita domani 4 di aprile. Esatto. Vogliamo diamo fare questo... delle segnalazioni. Ok, abbiamo il, per riallacciarci al genere di prima, Jimmy Bobo, Bullet to the Head, genere azione, ritorna sugli schermi il grande Sylvester Stallone. Ok, quindi c'è molta molta azione. Poi vogliamo ricordare un bellissimo film che andrò sicuramente a vedere. Esce la biografia, la filmografia della vita di Hitchcock. Va bene, il maestro del brivido. Esatto, il grande. Ok. E poi un'altra segnalazione italiana, un film italiano di genere drammatico, Bianca come il latte, rossa come il sangue. Bellissimo anche questo, appunto tratto dall'omonimo bestseller di Alessandro D'Avenia, quindi da vedere assolutamente. Il cast è composto da Filippo Scicchitano, Gaia Weiss, Aurora Ruffino, Luca Argentero, che a te piace tantissimo. Un bel questi ragazzone. Sono un bel ragazzone, ecco. Questi sono le segnalazioni dei film in uscita domani. Dobbiamo salutare. Siamo sono già sempre in qui ritardo con noi i nostri amici. Li ringraziamo amici ancora una Cefalo volta Web per essere stati con noi. Stefan, Stefan. Grazie a voi di averci invitato qui. Davide, grazie a voi. Sì, ringraziamo voi e tutta la redazione di CRM. E seguite la rubrica anche in versione scritta su cefaloweb.com, appunto. Bene, bene. Noi naturalmente ci rivediamo mercoledì prossimo con il nostro EPCine. Ma adesso ci tocca salutare. Sì. E noi vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di CRM. Buona serata. E ci vediamo, ci risentiamo con, insieme a me, naturalmente, venerdì. Ciao, ciao, ciao. Baci e alla prossima.